Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Mario Moretti Polegato. Idee che respirano. Di Vanni Truppi. Oggi parliamo della scarpa che respira, o meglio dell'inventore di quelle calzature che, grazie ad una suola innovativa, ad un sistema innovativo, hanno fatto il giro del mondo. Classe 1952, nato a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, Mario Moretti Polegato ha avuto un'idea rivoluzionaria che, tuttavia, pensate, in un primo momento non ha avuto il successo sperato. La Geox, la scarpa che respira, è nata sì da una ispirazione di Moretti Polegato, ma anche e forse soprattutto da una sua necessità durante una passeggiata nel deserto. Era nel deserto del Nevada, caldo insopportabile, e aveva i piedi letteralmente in fiamme. Geox nasce da un'idea della traspirazione nelle scarpe con le suole di gomma. In realtà ho scoperto poi che era un problema dell'intera umanità. E da questa idea ne è derivata una grande impresa che oggi è Geox, la prima azienda italiana fatta in pochi anni del suo settore, e oggi siamo i secondi al mondo nelle scarpe da città dopo la Clarks. L'idea nasce agli inizi degli anni 90, quando io ho avuto l'occasione di visitare l'America, sono stato nel deserto del Nevada a fare una passeggiata e soffrivo con i miei piedi nell'uso delle scarpe con la suola di gomma. E così, senza minimamente pensare alla fortuna, con un coltello di quelli svizzeri, sa, quella con il colore rosso, cioè il manico rosso, ho fatto un buco nella suola destra e un buco nella suola sinistra, pensando in questa maniera i miei piedi possono respirare. Poi tornato in Italia, da quel buio entrava acqua quando pioveva. E così ho introdotto un materiale speciale all'interno della suola, che è una membrana che è impermeabile e traspirante. Tutto questo è l'idea iniziale, che è stata accompagnata naturalmente da un brevetto. Era il 1995. Moretti Polegato era in giro per gli Stati Uniti per promuovere i vini dell'azienda di famiglia, che è una delle maggiori produttrici di Prosecco in Italia. Dopo il brevetto era convinto che quella idea rivoluzionaria potesse interessare ad altre industrie calzaturiere, ma così non è stato. Moretti Polegato ha cominciato quindi a produrre in proprio la scarpa che respira. Una scommessa partita con qualche dipendente, qualche collaboratore, fino poi ad arrivare ad un giro d'affari oggi milionario e anche alla quotazione in borsa qualche anno fa. Un vero e proprio record, un caso italiano è stato detto. L'azienda inoltre quest'anno ha ricevuto il premio Mediobanca per la realtà più dinamica del panorama italiano, dopo aver conseguito nel 2007 un fatturato pari a 770 milioni di euro, segnando un incremento del 126,5% rispetto al 2004. Questo brevetto l'ho offerto alle più grandi compagnie del mondo delle scarpe, nessuno mi ha creduto e così alla fine ho deciso io di incominciare a produrre scarpe. Questo è successo 14 anni fa. Qui a Montebelluna, siamo nel distretto delle scarpe sportive, però ho deciso di iniziare con le scarpe da bambino civili. Ho trovato 5 ragazzi, li ho convinti nella mia idea, gli ho dato a ognuno di loro una diversa responsabilità, a uno una responsabilità della produzione delle scarpe, a un altro del marketing, a un altro della contabilità, perché parlavamo di contabilità all'inizio, non di finanza, a un'altra persona la ricerca e delle vendite. Dopo 14 anni, da 5 persone nella compagnia, fra diretti e indiretti, erano 30.000 addetti e abbiamo creato un gioiello nell'economia italiana, tanto è vero che Geox oggi ha un bilancio veramente molto molto interessante. Mediobanca in questi giorni ha dichiarato che il bilancio di Geox del 2008 è il migliore bilancio italiano di tutte le imprese, non quelle delle scarpe, per il tasso di crescita e di redditività. E questo lo dico con grande orgoglio per quello che sono riuscito a fare, per tutti coloro che hanno lavorato intorno a questo progetto, ma poi anche per gli investitori, perché oggi Geox è una società quotata alla Borsa di Milano e chiunque può comprare le nostre azioni. Il nome del marchio Geox nasce dalla fusione delle parole Geo, terra in greco, ed X, lettera che sta a simboleggiare la tecnologia. un mix, sottolineano, dell'azienda di Montebelluna, che sta alla base di una idea rivoluzionaria che sarà poi applicata anche ad altri oggetti di abbigliamento, come ad esempio le giacche. Geox si è inventata anche le giacche che respirano. Il sistema è semplice, anche se poi realizzarlo è tutt'altra cosa. Una serie di piccoli fori nelle suole di gomma delle scarpe permettono la traspirazione. Geox quindi è nata da una intuizione, da una necessità. Ma per Moretti Polegato è importante anche l'attività di ricerca. La sua azienda infatti investe circa il 3% del fatturato annuo nelle attività di ricerca e nella sperimentazione di nuove idee per il mercato. Nella sede di Montebelluna ci sono 15 addetti tra ingegneri, chimici, fisici che studiano i movimenti del calore umano, la traspirazione, insomma studiano nuovi materiali per far respirare il nostro corpo. Certe volte le grandi idee nascono nell'ambiente universitario, dove dei gruppi di ricercatori, soprattutto nel campo della chimica, della farmacologia, hanno degli obiettivi, spesso magari neanche non ci arrivano. Spesso le grandi idee nascono da riflessioni personali, come l'ho avuta io, ma ognuno di noi può avere idee. In poche parole, noi possiamo creare tecnologie, creare degli innovatori nel nostro paese da ogni persona. Il rifiuto del brevetto di Moretti Polegato da parte delle major mondiali delle calzature sportive ha fatto, diciamo la verità, la fortuna dell'imprenditore trevigiano. Oggi le Geox vengono indossate addirittura da Papa Benedetto XVI, dai Reali di Spagna. E come per una sfida, la Geox oggi produce anche scarpe per lo sport. Una mossa che ha il sapore della rivincita dopo il famoso rifiuto di 15 anni fa. L'industria che respira con questa operazione si è messa direttamente in concorrenza con marchi del calibro di Nike, Puma, Adidas, aprendo le porte anche ad uno sport di elite come il golf, infatti produce calzature per gli amanti di questo sport. L'idea della scarpa che respira è sicuramente quella che ha avuto più successo e che ha fatto di Moretti Polegato uno dei 6 uomini più ricchi d'Italia. L'imprenditore del resto non si separa mai dal suo taccuino, lo porta sempre dietro, lo porta sempre in giacca, perché afferma gli vengono idee in continuazione e non vuole rischiare di perderle, quindi col taccuino alla mano ovviamente prende appunti. Basta però avere soltanto una buona idea? Se è vero, come sottolinea il patron di Geox, che tutti hanno la possibilità di avere l'intuizione vincente, in molti casi però c'è il problema dello startup, come far nascere un'azienda, come evitare di commettere passi falsi e soprattutto dove trovare il capitale necessario per avviare un'attività. La mia è una storia particolare, perché io mi ricordo quando ho avuto il diniego da parte di queste grandi compagnie del mondo che non erano interessate e che ho deciso io di cominciare a produrre le scarpe. Per prima cosa sono andato molto cauto nei primi anni, quindi con tassi di crescita molto molto limitati, che perché non avevo nessuna cultura. Secondo, ho raccontato questa mia storia ad un direttore di una banca locale. A quel tempo c'era ancora la Cassa Marca a Treviso, poi Cassa Marca è stata assorbita da Unica, sono state tutte nazionalizzate. E lui ha creduto in me e mi ricordo che mi diede un fido limitato per la stagione, con la promessa che se fosse stato corretto me l'avrebbe rinnovato. E così è cominciata la mia storia con un debito bancario. Poi io sono stato corretto, mi ha rinnovato il fido e dopo 2-3 stagioni altre banche hanno chiesto di poter offrirmi altri fidi, finché abbiamo costruito il telaio dell'azienda. L'operazione della quotazione in borsa ha risolto ogni problema. Perché? Perché vendendo il 29% del nostro capitale abbiamo risolto tutti i problemi dell'azienda, anzi abbiamo creato una grande cash e quindi praticamente possiamo dire che Geox è nata dall'idea e dall'aiuto di una banca. Moretti Polegato però, prima di fondare Geox, era già un imprenditore. Come detto, lavorava nell'azienda di famiglia che produce prosecco in provincia di Treviso. Il suo destino, fino al 1995, anno di fondazione di Geox, sembrava segnato. e del resto una laurea in giurisprudenza, un diploma in enologia lasciavano poco spazio all'interpretazione. Mario Moretti Polegato doveva occuparsi dell'azienda di famiglia. E del resto, come abbiamo accennato prima, proprio un viaggio per la promozione negli States del Prosecco, prodotto dall'azienda della sua famiglia, ha dato il via alla scarpa che respira. Io provengo da una famiglia di imprenditori di vino. La mia famiglia produce vini da 3 generazioni, siamo leader nella produzione del vino Prosecco, con i marchi La Gioiosa, Villa Sandi. Oggi ho un fratello, che è più giovane di me, che si occupa di tutta la produzione del vino e io soffro per questo. Perché? Perché fin dei conti io sono stato cresciuto nel vino. Dicono che mio padre, quando sono nato, mi ha bagnato con una goccia di vino le mie labbra dicendo: tu sarai il futuro enologo della nostra azienda. Impossibile conoscere il futuro. L'importante è che ogni persona che pianifichi di fare qualcosa di nuovo studi bene quello che sta facendo e dica agli altri, si faccia anche aiutare dagli altri per verificare se l'idea innovativa è buona, perché questo è molto importante. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Torniamo a parlare di Geox e del suo inventore Mario Moretti Polegato. All'apparenza è una persona tenace, determinata, con un'aria austera, forse a causa di quel paio di occhiali che fanno parte del suo look, occhiali con la montatura ben in evidenza. Si considera però più un inventore che un imprenditore ed è convinto che ricerca e innovazione siano fattori determinanti per vincere la partita dei mercati. Del resto, la sua azienda, lo abbiamo accennato prima, investe in ricerca circa il 3% del fatturato ogni anno, 3 volte di più rispetto allo Stato italiano, che investe l'1% del prodotto interno lordo sulla ricerca. Nella vita di Mario Moretti Polegato però ovviamente non c'è soltanto Geox, nonostante egli si definisca un Geox centrico, ma anche altre passioni come per esempio le motociclette, i cavalli, i viaggi, meglio perché no, su 2 ruote. E poi la solidarietà. Dal 2004 è fondatore e consigliere dell'associazione Ollus Il Ponte del Sorriso, costituita dal sindacato UIL e dalla Confindustria. L'associazione opera in Romania a favore dei bambini orfani e dei minori a rischio oppure disagiati. Ma nel privato, chi è Mario Moretti Polegato? Cosa pensa? Quali sono le sue eventuali preoccupazioni? È una persona che soffre, non per Geox che va divinamente bene, ma soffre per il sistema paese Italia, perché io vivo spesso all'estero, rientro in Italia e vedo tutta questa grande creatività italiana che non viene utilizzata. Vedo tanti giovani che non sono focalizzati. Quando noi potremo veramente, anche nei settori dove siamo maggiormente conosciuti all'estero, nel settore della moda, nel settore del design, nel settore dei mobili, per non dire il settore della meccanica, eccetera, essere i primi. Quindi io penso che l'Italia non è un problema, una questione di moneta per poter rilanciare l'economia italiana, ma è una questione di cultura. Noi dobbiamo in Italia spiegare a tutto l'esercito degli imprenditori italiani e ai giovani che cosa vuol dire innovare. Innovare è l'insieme di 3 fattori, creare, brevettare e collaborare con l'università. E gli stranieri non verrebbero in Italia solo per comprare prodotti made in Italy, ma per comprare progetti, e faremo quel salto culturale di cui l'Italia ha bisogno, da un capitalismo industriale volto nell'acquisizione delle infrastrutture, di macchinari, a un capitalismo culturale in cui investiamo sui giovani e finalmente daremo un posto di lavoro ai nostri figli. Tutti noi abbiamo un figlio in casa, il nostro figlio è laureato, non farà l'operaio. E quindi questo ha bisogno il nostro paese. Un quadro schietto della situazione nel nostro paese. Da più parti del resto si dice che bisogna puntare sulla ricerca, sull'innovazione, sui nostri cervelli per evitare quella che molti definiscono una inevitabile fuga in cerca di qualcosa di meglio, quantomeno di un posto di lavoro che in Italia è sempre più difficile trovare. Visto così, il sistema paese, il sistema Italia è poco confortante, le chance per i giovani sono davvero ridotte all'omicino. Per Moretti Polegato però le cause vanno ricercate nella globalizzazione e nella incapacità per il nostro paese di correre al passo con gli altri e di saper raccogliere le opportunità offerte da un mercato che si allarga sempre di più. Questo problema è stato accelerato ed è stato messo ancora più in evidenza dal processo di globalizzazione che ha causato anche altri problemi. C'è stata in questi ultimi anni una globalizzazione troppo veloce, senza regole, e oggi in molti settori siamo indifesi. I conti di Geox sono in positivo nonostante la crisi e le prospettive sono ottimistiche, le previsioni sono più che buone. La LIR, la finanziaria che fa capo alla famiglia Moretti Polegato, sostanzialmente la cassaforte di famiglia, è scesa in campo per rilevare gli asset calzature dello storico marchio Diadora. In cantiere anche una serie di operazioni immobiliari per il consolidamento del patrimonio e l'obiettivo di aprire altri 150 negozi entro la fine di quest'anno. Notizie, numeri, circostanze che fanno pensare che nel Trevigiano non respirino soltanto le scarpe, ma anche l'economia. E l'aria che si respira è sicuramente un'aria buona, un'aria positiva. Eppure, da altre parti, almeno la crisi c'è e si sente, c'è come. Il 2009 è l'anno orribile per l'economia mondiale, c'è la crisi, tutti gli indicatori sono in negativo, i mercati finanziari stentano a decollare. Parlare di Made in Italy, aiuto ai giovani, possibilità di creare nuove imprese sembra cosa impossibile. Molte aziende sono costrette a ricorrere alla cassa integrazione, i prezzi dei prodotti e dei servizi legati al petrolio vengono spinti al rialzo e questo ovviamente incide sul bilancio e sul budget non soltanto delle imprese ma anche delle famiglie. Un quadro, insomma, a tinte scure, a tinte fosche. E come si esce dalla crisi? Basta soltanto l'ottimismo. Qual è la strada, la ricetta secondo Mario Moretti Polegato? L'ottimismo fa parte dell'immagine dell'italiano, che è quella che con l'arte di arrangiarsi ne viene sempre fuori. Oggi però questa grande capacità che noi abbiamo di far felici gli altri, del paese del bentigodi, noi dobbiamo venderla. Com'è che noi vendiamo il nostro talento? Attraverso la registrazione delle nostre idee, attraverso la collaborazione con l'università, per far sì che gli stranieri non vengano solo in Italia per divertirsi, che ci fa solo piacere, ma che vengano anche a comprare i nostri progetti. Due lauree honoris causa a Venezia e in Romania, una infinità di lezioni ai giovani nelle università di Pisa, Napoli, Venezia, ma anche all'estero, per esempio a Lisbona, Cambridge e Boston. A questo poi si aggiungono numerosi riconoscimenti come miglior imprenditore, le onorificenze di Cavaliere del Lavoro e Grande Ufficiale della Repubblica che ha ricevuto una dietro l'altra. Una nel 2005, la seconda nel 2006 con due presidenti della Repubblica differenti. Infatti la prima gli è stata conferita dal presidente Ciampi, la seconda da Giorgio Napolitano. Spesso nei suoi discorsi Mario Moretti Polegato parla delle nuove generazioni e crede in quella che egli definisce la missione dell'imprenditore, il ruolo sociale dell'imprenditore. Sicuramente sì, perché noi diciamo male dell'Italia, male dei politici, però l'Italia siamo noi e quindi noi dobbiamo legarci assieme, noi politici, dei vari aree che noi abbiamo dell'Italia, perché l'Italia, ripeto, siamo noi. Sono spesso nelle università, insegno alle più grandi università del mondo, parliamo dell'Accademia delle Scienze a Mosca, MIT Boston, Vancouver, Cambridge, la Sorbonne, per non parlare delle maggiori università italiane, e incontro tanti giovani. E spesso mi chiedo che cosa devo fare nel futuro. Dovrei occuparmi esclusivamente di questo, però devo fare anche l'imprenditore. Ma sicuramente incomincio a sollevare un problema, poi sicuramente la politica e le istituzioni spero che mi seguiranno per poter mettere a frutto questo. La storia di Geox è iniziata in un deserto del Nevada, negli Stati Uniti, ma dopo 15 anni Mario Moretti Polegato sarà tornato negli States, in quel deserto, per una passeggiata, magari con ai piedi un paio di scarpe che respirano. Nel deserto non sono tornato, però ho donato il paio di scarpe a un museo di New York. Ed è tutto per questa puntata di Voci di Impresa. In regia Alessandro Chiappini, un saluto da Vanni Truppi.